L'anitra, il cespuglio e il pipistrello, da Favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un'anitra, un cespuglio e un pipistrello, non trovando fortuna nel paese, fanno una lega ed a comuni spese vanno in cerca d'un sito un po' più bello. Con agenti e commessi una gran banca aprirono e un'azienda, in cui non manca un registro, una penna e un calamaio. Ma sul più buon scoppiò subito un guaio. Tirato in stretti gorghi il capitale e in un mar pien di scogli, in un momento precipitò nel baratro infernale, che dal volgo si chiama fallimento. Ma il mio terzetto non strillò. Sapienza invece d'ogni straccio il mercante, quando perde, di far sempre sembiante che guadagna e salvare l'apparenza. Ma questa volta il tonfo è così grande che la voce in un subito si spande. Senza denari, credito e soccorso, era ridotti a far ballare l'orso. Con sbirri e carte e citazioni intorno, con creditori indocili, indiscreti, un momento non eran quieti dallo spuntar al tramontar del giorno. E congiuravan per trovare appigli di non pagar, ma inutilmente, credi. Il cespuglio cacciavasi fra i piedi della gente per chiedere consigli. Tormentato dai birri, iva anche lui, il pipistrello, negli angoli più bui, e l'anatra tuffavasi nel mar la mercanzia perduta a ricercare. Conosco debitori che non sono pipistrelli, non anitre e cespugli, ma nobiloni i quali han questo dono d'uscir per la scaletta dei garbugli. Fine della favola, l'anitra, il cespuglio e il pipistrello. Questa registrazione è di dominio pubblico.